Avventurieri, il vostro nuovo obiettivo è recuperare la chiave dell'acqua. Per farlo dovrete attraversare il fiume di Letar. Forza, partiamo!